compagni dei amici della banda. Sarei potuto evadere tranquillamente, non sono stato aiutato. La morte di mio fratello, che io penso che siano responsabili loro, se non materialmente, almeno moralmente, perché c'era proprio da parte della banda un sodalizio che andavano protette anche i familiari. Ma ormai ero rimasto solo, non sapevo più cosa, da che parte stare, non sapevo più, non mi fidavo più di nessuno. È nata dalle rivelazioni di Maurizio Abbattino, l'ex componente della banda della Magliana, arrestato a Caracas nel gennaio 92. L'operazione di polizia che ha portato all'arresto di 56 persone, tutte legate alla banda della Magliana. Una ventina di omicidi, sequestri di persona, traffico di stupefacenti, riciclaggio, questi reati commessi, ma soprattutto pericolosi agganci con la destra eversiva, la P2, Cosa Nostra. Parla molto della banda della Magliana ancora oggi, quando all'epoca c'erano altre organizzazioni, appunto come Ordine Nuovo, la P2, che sembra che stanno nel dimenticatoio. Sembra che la Magliana sia diventata una discarica, che tutto quello che non si riesce o non si vuole, se si riesce a venire da capo, si incolpa la banda della Magliana. Mix 24, la storia. Umberto Croppi, ex assessore alla cultura della Giunta Alemanno fino al 2011, quando venne estromesso dalla Giunta, autore del libro Romanzo Comunale, in cui si spiegano gli intrighi del Comune di Roma e i limiti dell'amministrazione Alemanno. Quello che legge sui giornali la sorprende? Non mi sorprende, perché appunto questo, che il quadro che viene fuori, al di là degli aspetti più criminogeni o criminali, su cui la magistratura dirà la sua e poi vedremo come andrà a finire, è il fatto che comunque è certo che ci fosse una rete di relazioni assolutamente bipartisan. Beh, se ne rendeva conto già allora. Ma io credo che ogni cittadino se ne renda conto, cioè ognuno di noi ha a che fare, al di là del proprio impegno o meno con la politica, con situazioni di questo genere. E le cronache di tutti i giorni sono piene di notizie che riguardano questi fenomeni. Ma secondo lei c'era una vera e propria cupola? Più che una cupola, io vedo quello che ognuno di noi può vedere, che ci sono delle reti consolidate di rapporti che vedono insieme interessi politici e di imprenditori, che poi sono potenzialmente criminogeni o addirittura in qualche caso sono ai fili della legalità, sono situazioni borderline. Questo che viene fuori adesso anche in termini quantitativi, noi stiamo parlando di alcune decine, 30, 40, 50 milioni che ogni anno vengono distribuiti, sì. Ma le varie inchieste giornalistiche, dico, non giudiziarie, per esempio sugli appalti di aziende municipalizzate come l'ATAC, acquisti di materiali, appalti di manutenzione, già solo quelli sono per cifre ampiamente superiori e già solo quelli dimostrano che esiste un intreccio affaristico. Una zona grigia, diciamo, dove... Ci sono società municipalizzate, il Comune di Roma ne ha 84-85 partecipate, di cui 12 in house, che sono evidentemente totalmente inutili e producono passivi inspiegabili. Sui giornali e in TV si parla di mondo di mezzo tra malavita, affari e politica. In questo triangolo la politica è l'anello debole o forte? Ma la politica è un anello congeniale, non c'è una gerarchia secondo me. Quando vediamo i costi delle campagne elettorali, cioè stanno attaccati sui muri i costi della corruzione, stanno ai tavoli delle cene offerte a migliaia di persone. Beh, questo poi apre un capitolo sui costi della politica. Lei ha sempre attaccato Alemanno e se n'è andato, ma crede alle accuse contro di lui? Allora, io di Alemanno sono stato uno stretto collaboratore e la nostra rottura è derivata dal fatto che io gli imputavo che lui aveva tutte le risorse per interrompere un meccanismo. E perché non l'ha fatto? Perché lui ha creduto, come quasi tutti, a volte appunto anche persone che sono soggettivamente in una posizione che ritengono etica, ha ritenuto che la politica comunque dovesse utilizzare quegli strumenti. Ora io, rispetto alle accuse che gli vengono mosse, peraltro non le conosco nemmeno perché si parla genericamente di un'imputazione di associazione, concorso esterno, in associazione, quindi non so esattamente neanche cosa gli viene imputato. Quindi io ripeto, i profili penali di questa vicenda mi interessano poco, io non so se Alemanno ha commesso dei reati, però che ci fossero delle situazioni che andavano combattute, ripeto, ci sono cose che sono pubbliche, documentate e alla luce del sole. Se escono 24 milioni dal comune per i campi rom, basta andarli a vedere i campi rom per capire che non, che non arrivano lì. Umberto Croppi, ma lei conosceva Massimo Carminati? No, Massimo Carminati quando era giovanissimo era una famiglia di destra, non so neanche se l'ho incontrato fisicamente, ha avuto un breve passaggio lui e poi la sua famiglia invece in maniera più organica negli ambienti della destra ufficiale, quella missina. Poi da quando è entrato in clandestinità, per così dire, io non ho mai avuto occasione di vederlo, né tantomeno in tempi più recenti. Io poi tra l'altro devo anche spiegare una cosa, io ho passato la mia giovinezza in quel mondo, ma io nel 92 sono uscito dall'MSI. Ma secondo lei davvero ha le caratteristiche del leader? Per come lo descrive, come se si è fatto un'idea. Parrebbe di sì. Una cosa che però va chiarita è questa, che adesso si sta facendo un po' di confusione su questi passaggi, perché la storia di Carminati non è attaccata alla storia di Alemanno, cioè Carminati non arriva in Campidoglio attraverso Alemanno. La rete che lui ha costituito, che anche questa è perfettamente bipartisan, perché il suo compare è Buzzi, che invece viene dall'estrema sinistra, è una rete che precedeva l'elezione d'Alemanno. Tant'è vero che Pignatone dice una frase che è lapidaria, dice testualmente Carminati e Buzzi erano tranquilli chiunque avesse vinto le elezioni. Non dice si sentivano tranquilli, cioè registra un fatto oggettivo, erano tranquilli chiunque avesse vinto le elezioni. Tant'è vero che nelle loro telefonate questo risulta chiaramente. Umberto Croppi, lei dice nel suo libro: la nostra imprevista esperienza di governo rappresenta una metafora utile a comprendere lo stato di salute dell'intero paese. In che senso? Dunque, il mio libro è stato pubblicato circa un mese prima dell'esplosione dell'affare Fiorito, che è stato il primo anello di una catena di cose analoghe poi accertate in tutte le regioni italiane. Poi poco dopo a Roma è stato arrestato Samuele Piccolo, vicepresidente del Consiglio Comunale, poi più recentemente c'è il caso di Stefano e ce ne sono tanti altri. Questi non possono essere ritenuti episodi, perché ognuno di questi fatti è evidentemente un pezzo di una rete. Purtroppo è un meccanismo, è la Corte dei Conti che ogni anno nella relazione annuale ci dice che in Italia c'è un giro di corruzione che si aggira intorno ai 55 miliardi, cioè questo è un dato del massimo organo di giustizia amministrativa contabile di questo paese. E Roma come si può salvare? Roma come si può salvare? Io credo veramente che questa sia un'opportunità straordinaria per Marino, perché io lo pensavo anche di Alemanno che avesse tutte le possibilità per farlo, Marino forse ancora di più, perché lui è veramente estraneo come sua storia a questo tipo di cultura. In questo anno e mezzo, e lui lo ha registrato, ha avuto delle difficoltà a mettere seriamente mano a questi apparati, tanto è vero che queste cooperative continuavano a essere finanziate fino all'altro ieri nei modi che sappiamo. Ora però l'incidente giudiziario lo mette in condizione di poter fare una rivoluzione senza che nessuno sia in grado di opporgli resistenza. Quindi io confido in questa possibilità, ripeto, è un'opportunità straordinaria e forse definitiva. Speriamo che abbia la forza di mettere mano al suo rigore, che indubbiamente esiste, per interrompere questi meccanismi. Grazie Umberto Croppi. Grazie a voi. Diventa un Cloud Italia provider. Guadagna con il cloud anche tu da subito. clouditalia.com. Vi ha presentato Mix 24.